Cari radioascoltatori, buonasera e bentornati ad un'altra puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto in studio da Annalisa e in collegamento ci dovrebbe essere Alessandra. Ciao Alessandra. Ciao Annalisa e buonasera a tutti cari amici radioascoltatori. Buonasera ancora cari radioascoltatori e diamo il benvenuto questa sera ad un nuovo regista che ci supporterà a partire da questa sera, nei prossimi mesi. Un caloroso benvenuto a Michele. Ciao Michele. Ciao, un saluto a tutti. Quindi un caloroso benvenuto a Michele nella squadra di Giro di Boa. Dunque, Annalisa, un caloroso benvenuto e soprattutto un grazie, un grande grazie. Beh, grazie anche a voi per coinvolgermi in questa avventura molto interessante, speriamo di arrivare sani e salvi. Sono sicura che arriveremo sani e salvi, ancora grazie Michele e che sono sicura i nostri radioascoltatori avranno anche il piacere di ascoltare a partire da questa puntata e dalle prossime. Dunque, Alessandra, cominciamo con il primo tema di questa sera. Questa sera parleremo del summit climatico delle Nazioni Unite, conclusosi il 18 dicembre scorso a Copenaghen, in Danimarca. E il protocollo di Kyoto sta per scadere senza che sia stato varato un nuovo accordo, ma solo un generico accordo politico sul clima negoziato da un ristretto numero di paesi. Quali sono quindi gli scenari probabili dopo Copenaghen? A questo punto come si svilupperanno nell'immediato le azioni internazionali per la riduzione dei gas serra? Questa sera ne parliamo con un ospite in collegamento, Monica Frassoni, che è co-presidente del Partito Verde Europeo ed è già stata membro del Parlamento Europeo, eletta nel 1999 e nel 2004. Monica, ci sente? Sì, buonasera a tutti, salve. Buonasera e bentornata a Giro di Boa e a Radio Alma. Grazie, grazie, è un piacere. Dunque, Monica, come dicevamo in apertura, Copenaghen ha prodotto soltanto un accordo politico che è stato negoziato alla fine da un limitato gruppo di paesi, Stati Uniti, Cina, India, Brasile e Sudafrica, un accordo dove manca una visione di lungo periodo per ridurre le emissioni, per ridurre i gas serra entro il 2050 e mancano altresì obiettivi per il 2020. Lei era a Copenaghen e come valuta questo il risultato finale, questo accordo di Copenaghen? E poi le vorrei chiedere se può spiegare ai nostri radioascoltatori quali sono i punti principali di questo accordo. Allora, il punto principale soprattutto la valutazione è ovviamente una valutazione negativa se noi dobbiamo considerare il punto di partenza, e cioè il fatto che ormai da 2 anni si stava negoziando per arrivare a Copenaghen ad avere un successore, diciamo così, del protocollo di Kyoto, che rispetto al protocollo di Kyoto aveva 2 differenze importanti. La prima è che, come voi sapete, Kyoto coinvolge solamente un limitato numero di paesi e soprattutto tiene fuori gli Stati Uniti e anche i BRIC, cioè i paesi emergenti. E poi il protocollo di Kyoto aveva un livello di riduzione, degli obiettivi di riduzione estremamente limitati. Quindi diciamo che l'obiettivo di Copenaghen, che ormai insomma era una cosa sulla quale stava lavorando da anni, era quella di arrivare a dare un successore al protocollo di Kyoto più ampio, più largo, dove si potessero descrivere gli obiettivi di riduzione che a livello globale dovevano essere raggiunti e che dovessero anche definire gli impegni finanziari che i paesi, soprattutto i paesi cosiddetti sviluppati, dovevano concedere per fare in modo da mitigare e governare gli effetti che sono già peraltro visibili dei cambiamenti climatici sui paesi in via di sviluppo. Questi erano gli obiettivi che sono stati considerati sempre difficili, ma comunque realistici e raggiungibili da quando insomma si è cominciato a discutere questa cosa ormai 2 anni fa a Bali. Quindi se noi dobbiamo considerare l'accordo secondo il metro di quello che bisognava raggiungere, quello che era necessario raggiungere, è evidente che noi dobbiamo essere così coscienti che nessuno di questi risultati è stato acquisito. Tra l'altro voglio dire che rispetto a quando si negoziò Kyoto c'è una grande differenza, un'importante differenza, ed è che il livello di non solo di coscienza ma anche di realtà della questione dei cambiamenti climatici nella nell'opinione pubblica mondiale, forse ne possiamo escludere quella italiana, ma questa sarebbe un'altra discussione, è molto ampia e per di più ci sono delle prove praticamente irrefutabili, perché quando il 90% degli scienziati competenti in questa materia dicono che ci sono i cambiamenti climatici che dipendono dall'uomo e che se bisogna ridurre o perlomeno se bisogna fare in modo che questi cambiamenti climatici non diventino irreversibili, è necessario limitare l'aumento di temperatura entro i 2 gradi da qui ai prossimi decenni, è chiaro che abbiamo una base di negoziato sulla quale non è che possiamo stare a scherzare più di tanto, e quindi non è che si può dire sì ma si sa, non si sa, riduciamo 20, 30, 40, gli obiettivi sono stati perfettamente definiti secondo dei criteri scientifici e non dei criteri politici. Allora, detto tutto questo, che cosa rimane a Copenaghen? A Copenaghen rimane un accordo non vincolante, per quello che si chiama accordo e non si chiama trattato protocollo, e rimane un impegno. Allora, è evidente che noi abbiamo una coscienza chiara dell'urgenza della soluzione del governo dei cambiamenti climatici, noi non possiamo che essere estremamente delusi della governance mondiale che è uscita fuori, anzi che non è uscita per niente fuori a Copenaghen, e quindi questo è un elemento che non possiamo assolutamente dimenticare. Allo stesso tempo non possiamo nemmeno lasciarci prendere la disperazione, perché non è che adesso che sappiamo che tutto va male pensiamo che non bisogna più agire, e quindi bisogna definire quali sono i punti che sulla di Copenaghen possono essere usati per fare in modo che entro quest'anno si arrivi a un accordo vincolante che definisca un livello decente di riduzione delle emissioni secondo quegli obiettivi che dicevo prima, e un investimento finanziario opportuno e necessario per rispondere a livello globale a questi obiettivi. Quindi direi che per quanto riguarda la valutazione siamo nei guai, ma dobbiamo comunque cercare di uscirne. Monica, quali sono a Bruxelles c'è una palpabile delusione per quanto riguarda questo accordo, c'è chi addirittura ha parlato di un'umiliazione subita dall'Unione Europea. È esatto secondo lei parlare di umiliazione, prima cosa, e seconda cosa, che cosa non ha funzionato nei paesi dell'Unione Europea e quali potrebbero essere le dinamiche che bisognerebbe sviluppare, creare per eventualmente evitare una seconda umiliazione o comunque... Ma io personalmente credo che non si possa considerare umiliati se si è la causa del problema creatosi, nel senso che io sono dell'opinione che la strategia di negoziato dell'Unione Europea è stata assolutamente sbagliata e che dunque uno raccoglie i frutti di quello che semina. Perché dico questo? Dico questo perché quando si ha un presidente della Commissione che dice 2 giorni prima o 2 giorni insomma dall'inizio del vertice qua non se ne fa niente, ricorda evidentemente quando lo stesso Barroso disse nel 2005, dopo qualche giorno a qualche giorno dai referendum sulla Costituzione Europea, la Costituzione è morta, no? Nel senso che ha un effetto di smobilitazione totale e soprattutto non denota nessuna volontà di battersi, quindi penso che questo sia un elemento importante. Secondo elemento importante è il fatto che paesi come l'Italia, ai noi il Belgio e in modo più prevedibile la Polonia, si sono opposti assolutamente strenuamente. Voi pensate che c'erano Confindustria e Enel lì presenti ai negoziati, quindi non possiamo neanche stupirci più di tanto, appunto hanno impedito che l'Unione Europea rilanciasse sugli obiettivi di riduzione delle emissioni. Questo significa che io arrivo ai negoziati, dico ho già fatto quello che dovevo fare, adesso tocca a voi, è evidente che mi pongo fuori dal gioco, perché nel momento in cui io dico ormai ho già fatto tutto quello che potevo, l'arma che ho, che sono i soldi sostanzialmente e un eventuale obiettivo di riduzione più importanti, sul quale tra l'altro l'Unione Europea aveva detto che se ci fossero stati degli accordi internazionali si sarebbe ridotto non del 20 entro il 2020 ma del 30 entro il 2020, è evidente che io mi metto fuori dal gioco. Terzo elemento, il ruolo dei vari attori europei. Quindi noi avevamo i danesi che facevano i presidenti, con questa cosa pietosa per cui a un certo punto la presidente della conferenza, Madame Connie Hedegaard, che poi è diventata anche la commissaria al climate change qui all'Unione Europea, è stato detto: guarda, visto che io sono primo ministro, diretto primo ministro, tu vai, me ne occupo io di presiedere. Ovviamente quando uno presiede una riunione che non conosce e anche sarà anche un primo ministro, però evidentemente qualche piccolo problema di gestione della riunione c'è e c'è stata e sicuramente tutti l'hanno vista. Poi ci sono gli svedesi, presidenza. Gli svedesi avevano un obiettivo fondamentale, che era quello di evitare che ci fosse un limite troppo grande alla loro capacità di gestire il tema delle foreste, quindi la questione della deforestazione, che può sembrare un elemento, diciamo così, trascurabile, ma non lo è, perché l'impatto della deforestazione sull'aumento o sulla riduzione, secondo come la si gestisca, delle emissioni di CO2 a livello globale è molto grande. Però la Svezia aveva questo problema, che insomma doveva evitare che ci fossero degli obiettivi troppo ambiziosi anche per quello che riguarda la foresta. Ora io evidentemente sto un po' facendo una caricatura, però è solamente per far capire. Poi ovviamente c'erano i nostri amici Sarkozy e Merkel, i quali avevano ognuno di loro questa grande, come si chiama, ambizione di essere loro i master della questione, quindi davano conferenze stampa, se ne andavano in giro di qua e di là, facevano grandi discorsi, però poi alla fine contavano quanto la Germania e la Francia, che rispetto agli Stati Uniti, la Cina, eccetera, sono zero. Quindi penso che il combinato disposto fra una mancanza di ambizione, una estrema divisione e una indisponibilità a fare quello che fece l'Unione Europea in modo unitario e forte nel 2001, quando si salvò, quando fu l'Unione Europea che salvò Kyoto, evidentemente ha provocato la situazione nella quale noi siamo adesso, cioè di una Unione Europea sostanzialmente che ha fatto alcuni compiti a casa, ma non è che non è stata assolutamente in grado di giocare in modo unitario rispetto a un mondo nel quale l'Unione Europea conta per quello che conta, cioè 450 milioni di abitanti e una capacità di gestione unitaria pari a, non dico 0, ma a 5, quando invece bisogna essere almeno a 25. No. Quindi penso che queste siano state delle ragioni molto importanti. Vorrei tornare rapidissimamente, se me lo permetti, rispetto a quali sono i punti sui quali noi dobbiamo investire, diciamo così, in questo prossimo anno. Il primo punto su quale dobbiamo investire è il fatto che sono stati messi sul piatto dei soldi. Ora, è evidente che questo è una cosa che è stata fatta già a varie altre occasioni, pensiamo al G8, al G20, eccetera, nel quale appunto erano stati presi degli accordi che poi in parte non sono stati rispettati. Però questa questione della disposizione, insomma, di mettere sul piatto 100 miliardi di euro, di dollari all'anno arrivando al 2020, è un risultato importante. Chiaramente ci si arriverà in modo progressivo, nel senso che l'accordo, o perlomeno l'impegno, che però non essendo stato sottoscritto e messo, diciamo così, in forma di articoli, non è vincolante almeno per il momento, denota, è comunque un elemento importante. L'altro punto è che tutti hanno riconosciuto, questo si è scritto sull'accordo, che bisogna arrivare ad un aumento massimo della temperatura del 2%, che bisogna attrezzarsi per arrivare a questo risultato. Terzo elemento è che questa cosa comunque ha riguardato tutti quei paesi che prima non avevano accettato di lavorare all'interno dell'idea, insomma, di avere un accordo vincolante di livello internazionale. Allora, detto tutto questo, io penso che la vittima più illustre non è un pensiero particolarmente originale perché si è letto un po' ovunque, però la vittima più illustre di tutta questa bella storia è sicuramente il processo ONU, cioè il fatto che queste cose si negozino, si possano negoziare a livello globale, in cui Tuvalu ha lo stesso valore che gli Stati Uniti. Che poi evidentemente quando si ha una situazione di questo genere, succede sempre così nei negoziati intergovernativi, alla fine l'apparenza di eguaglianza si risolve con la vittoria dei più forti, che è stata più o meno quello che è successo poi a livello della conferenza della COP15. Monica, volevo appunto tornare su questo tema. Hai parlato in apertura, già avevi parlato della delusione sulla governance mondiale, ne parlavi anche adesso, cioè chi dice che il vero sconfitto siano state le Nazioni Unite e la Convenzione Quadro sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, appunto la UNFCCC, il processo che ha gestito gli accordi sul clima. E secondo te è necessario riformare i processi decisionali della convenzione? Credi che la convenzione sia il forum più indicato per portare avanti questi negoziati, o che magari si possano cercare altri approcci? No, io penso che noi dobbiamo giocare su più tavoli, nel senso che adesso nei prossimi mesi, per quanto riguarda l'Unione Europea, dobbiamo fare in modo che assolutamente uno si renda conto che questo giochetto di divisione perpetua non funziona e che bisogna avere un atteggiamento estremamente deciso e molto determinato se si vuole avere un ruolo in questo tipo di negoziati. Peraltro, si è detto per inciso, il nostro rappresentante più autorevole, non a livello di ministero ma a livello così di funzionario, che è praticamente l'uomo più potente che nella politica ambientale italiana, che si chiama Corrado Clini, ha detto: avete visto, avevo ragione io, non bisognava sottoscrivere il trattato di Kyoto, per dirvi a che livello siamo arrivati. E dunque, cioè, quando dico a che livello, significa a che livello di completa incapacità anche di capire qual è il ruolo di un paese come il nostro rispetto ad un processo globale di questo tipo, che non è che uno i cambiamenti climatici non ce li ha più perché non c'è il trattato di Kyoto, no? Cioè, è evidente che poi le terribili conseguenze problematiche di cambiamenti climatici non gestiti poi evidentemente saranno i nostri coloro che verranno dopo di noi che dovranno gestirli. Credo che bisogna procedere su piani differenziati, essendo veramente molto aperti a qualsiasi, non dico qualsiasi cosa, ma ad avere un piano di lavoro europeo molto più intenso rispetto a quello di oggi, nel senso che uno deve definire, noi dobbiamo definire degli obiettivi molto più ambiziosi. Poi bisogna lavorare evidentemente con gli Stati Uniti per fare in modo che questi obiettivi diventino un patrimonio di tutti, perché non va bene che l'Unione Europea magari ha dei fantastici obiettivi, però se poi dopo il resto del mondo non segue è problematica questa cosa, quindi questo rimane un obiettivo importante. Bisogna vedere dove e come questo tipo di impegno può e deve essere realizzato. Io penso che bisogna continuare a lavorare molto intensamente dentro il processo ONU, ma bisogna fare assolutamente di tutto per vedere in che altre istanze queste discussioni poi verranno fatte. Si è parlato ovviamente di Bonn, si è parlato del Messico dell'anno prossimo, però tutte queste cose qui sono delle tappe appunto del processo ONU, però si parla anche di una riunione che verrà convocata forse da Sarkozy per vedere che si fa, da un'altra riunione che verrà convocata da questo o da quello per vedere di rilanciare il processo. Insomma, io penso che bisogna essere pronti a giocare su diversi tavoli. E Monica, che cosa ne pensi di Obama? Una delusione circa gli impegni presi dagli Stati Uniti in termini di riduzioni di emissioni dopo quelle che erano le aspettative che si sono create al momento della sua elezione l'anno scorso in gennaio? Ma io penso che Obama più di così non è che potesse fare. Non sono mai stata una fan particolare di Obama dal punto di vista del metodo, insomma io ero più per, tanto per la cronaca, ero più per Hillary Clinton e quindi mi sembra che, nel senso che non avendo delle grandissime aspettative, diciamo che non mi sorprende, ecco, la piega che ha preso la faccenda, nel senso che gli Stati Uniti hanno degli interessi enormi per arrivare sì ad avere un accordo internazionale, ad avere un accordo sulla riduzione delle emissioni, ma lui ha dei problemoni a livello interno per convincere i suoi concittadini che questa è la strada giusta, che evidentemente non è che si può curare dei problemi degli europei o degli altri. Insomma, penso che abbia seguito una linea estremamente americana, nel senso che non abbia fatto gli interessi degli americani in questo momento, pensando che magari in seguito si sarebbe, questo metodo soft, che è lo stesso che ha utilizzato anche per la riforma della sanità, avrebbe potuto, potrà insomma portare ad un risultato positivo. Io penso che per Obama il fatto che ci sia tutti, il fatto che si realizzi il risultato di avere che tutti gli stati o la maggior parte degli stati dichiarano unilateralmente che cosa fanno per ridurre, sia almeno così importante come avere un trattato. Ecco, mi sembra che i due temi fondamentali degli Stati Uniti siano di riuscire a controllare il fatto che paesi come la Cina, eccetera, abbiano effettivamente tengono gli impegni che si sono presi, e poi dopo continuare a fare, avere una completa libertà per quello che riguarda le scelte rispetto alla politica americana. Cioè, ecco, il problema è che è verissimo che Obama è molto più multilaterale, però è molto più multilaterale che chi conta, con chi pesa, e quindi cioè, non è che noi possiamo lamentarci se poi ha seguito come possiamo dire il suo interesse, ha fatto quello che doveva fare, cioè nel senso che noi non ci dobbiamo aspettare sconti da Obama perché Obama, non so come dire. Monica, siamo quasi in chiusura, un'ultima domanda. Vorrei tornare a parlare un attimo dell'obiettivo, del possibile obiettivo del 30% che l'Unione Europea aveva già indicato prima di Copenaghen, ossia l'Unione Europea si era dichiarata pronta a ridurre le proprie emissioni del 30% rispetto ai livelli del 99 se i paesi industrializzati avessero preso impegni comparabili e paesi come Cina e India avessero fatto la loro parte. Ecco, c'è stata una riunione dei ministri dell'ambiente dell'Unione Europea lo scorso 16 gennaio e dopo questo incontro sembra che questo sia improbabile. Ecco, ti vorrei chiedere come vedi insomma, che cosa ne pensi, se pensi che nel corso del 2010 sia possibile arrivare a questo obiettivo? E poi un'ultima battuta, l'abbiamo menzionata nel corso dell'intervista, il ministro danese per l'ambiente Conny Hedegaard, che è insomma, dovrebbe essere la futura commissaria per l'azione climatica. Ecco, tu come vedi il suo ruolo e quali, diciamo, a quali livelli di ambizione potrà portare la Commissione e l'Unione Europea? Ma a me sembra che, per partire dalla Coba, la nuova commissaria abbia in testa esattamente le giuste priorità. Il problema è che se la squadra di Barroso e in particolare il Presidente, che ha disegnato una commissione che è sostanzialmente non solo debolissima ma anche molto dipendente da quello che lui dice, da quello che lui vuole, perché è così che l'ha fatta, dipende da se riuscirà a convincere il commissario, il presidente, nel senso che noi non dobbiamo mai dimenticare che Barroso aveva in uggia totale il commissario all'ambiente Dimas, perché a un certo punto Dimas era diventato non... Abbiamo perso il collegamento, credo. Alessandra, tu ci sei ancora? Io sì, ci sono. Direi di mandare una pausa musicale. Mandiamo un attimo una pausa musicale e cerchiamo di ripristinare il collegamento con Monica Frassoni per chiudere e concludere l'intervista. Cari radioascoltatori, abbiamo ripristinato il collegamento con la nostra ospite di questa sera, Monica Frassoni, co-presidente del Partito Verde Europeo, con la quale stavamo parlando dei risultati del summit climatico delle Nazioni Unite conclusosi a Copenaghen lo scorso 19 dicembre. Monica, siamo di nuovo in linea. Sì. Stavamo quindi parlando di quelle che possono essere le ambizioni della futura commissaria per per l'azione climatica. Sì, appunto, dicevo che penso che da questo punto di vista sarà veramente molto molto molto molto molto importante capire quale tipo di autonomia e di capacità di azione lei avrà rispetto alla sua presidente, rispetto quindi a Barroso, perché è evidente che se lei è in minoranza, come in molti casi è stata in minoranza Dimas, avendo anche un problema con gli stati membri, come cercavo di spiegare prima, la sua capacità di azione, nonostante lei abbia senz'altro le migliori intenzioni, sarà molto limitata, quindi sarà assolutamente fondamentale, e di questo noi dobbiamo anche discutere, a mantenere quel livello di grande mobilitazione, di mobilitazione assolutamente nuova che si è realizzata da parte delle associazioni, da parte dei cittadini, da parte dell'opinione pubblica, dei media, eccetera, per fare in modo di sostenere coloro che si battono per questo buon risultato della prossima COP in Messico e della fase intermedia, che ancora non si capisce bene cosa sarà, a Bonn. Monica, noi la ringraziamo per essere stata nostra ospite questa sera, per essere tornata un'altra volta ai microfoni di Giro di Boa. Grazie per il suo contributo di questa sera. Grazie a voi, e già che ci siamo, buon anno. Buon anno, buon lavoro a lei. E buon lavoro. Grazie. Cari radioascoltatori, abbiamo intervistato Monica Frassoni, co-presidente del Partito Verde Europeo e in precedenza membro del Parlamento Europeo. Mandiamo ora una pausa musicale e poi ritorniamo in onda con il secondo tema di questa serata. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento tutti i giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Abbiamo parlato questa sera del Summit di Copenaghen, che si è concluso il dicembre scorso con un accordo politico che però purtroppo non è riuscito a dare nessun seguito al protocollo di Kyoto. Ne abbiamo parlato con Monica Frassoni, co-presidente del Partito Verde Europeo, e ora Alessandra, è tempo di dare spazio al secondo tema di questa serata e la nostra seconda intervista. Esatto, Annalisa, come giustamente tu accennavi, anche questa sera abbiamo due argomenti, dunque due ospiti diversi. Dunque, per la seconda parte del programma ci occuperemo di quello che è successo la settimana scorsa, il 12 gennaio scorso, quando un fortissimo terremoto di magnitudo 7 ha colpito Haiti. L'epicentro si trovava a soli 15 km dalla capitale, Port-au-Prince. La popolazione colpita, secondo le stime dell'ONU, sarebbe all'incirca 3 milioni e mezzo di persone, ovvero un terzo della popolazione dell'intero paese. L'ONU ha definito la tragedia come il peggior disastro mai affrontato nella sua storia. Impossibile ad oggi fornire cifre reali per quanto riguarda i morti del sisma. Si parla di almeno 50.000 cadaveri finora recuperati, per un bilancio che potrebbe arrivare anche a 200.000 morti. La commozione ovviamente è molto profonda, diverse le organizzazioni umanitarie che si sono mosse immediatamente nelle primissime ore dopo il disastro. Noi ne parleremo questa sera con Fraia Raddi. Fraia, ci sei? Sì, buonasera. Buonasera. Fraia è assistente coordinatore delle operazioni di Medici Senza Frontiere ormai da 6 anni e, fra le altre cose, si occupa anche di Haiti. Fraia, allora io volevo chiedere, Medici Senza Frontiere lavora da Haiti ormai già da diversi anni, se non ricordo male già dal 1991, dunque conosce molto bene la realtà di Haiti, e forse è anche questo uno dei motivi che ha permesso all'organizzazione di agire in maniera molto veloce, di rispondere repentinamente a quella che è stata l'emergenza. Infatti nelle 72 ore subito dopo il disastro, Medici Senza Frontiere aveva già inviato 2 aerei cargo con oltre 50 tonnellate di materiale medico e beni di prima necessità. Ora, la mia domanda è: come viene gestita un'emergenza di questa portata da Medici Senza Frontiere? Quali sono le prime misure che vengono prese nelle 24 ore successive ad una tragedia del genere che si trova dall'altra parte del globo? Vorrei cominciare per dire, come giustamente detto lei all'inizio, MSF era già presente nel paese in diverse strutture di Port-au-Prince, dove noi lavoravamo soprattutto sulle urgenze, quindi urgenze generali, urgenze a livello di maternità e a livello traumatologico. Il fatto di essere già posizionati all'interno di un paese dà comunque dei vantaggi. Chiaro, questo terremoto ha raggiunto comunque dei livelli, una grandezza abbastanza catastrofici, e per noi le prime 24 ore sono state comunque abbastanza drammatiche. Abbiamo subito anche dei problemi strutturali, perché alcune dei nostri ospedali, delle nostre cliniche sono state comunque danneggiate anche durante il terremoto. E quindi abbiamo dovuto comunque anche prenderci cura dei pazienti che erano già ospitalizzati nelle nostre strutture, per poi cercare di accogliere nella maniera più veloce l'afflusso di gente che comunque veniva verso le nostre strutture. Per dare un esempio, anche il nostro stesso ufficio di coordinamento è stato adibito a una clinica, a un ospedale. Nelle prime 48 ore abbiamo ricevuto più di 150 pazienti, abbiamo curato più di 150 pazienti e stabilizzato all'interno del nostro ufficio stesso di coordinamento, prima di essere poi trasferito nelle varie strutture, insomma, che ancora erano agibili. Per quanto riguarda la reazione di MSF all'interno di Haiti, la prima cosa che abbiamo fatto, a parte appunto cercare di curare il numero più elevato di persone, è stato anche quello di individuare il più presto possibile, il più velocemente possibile, delle strutture che potevano comunque accogliere dei pazienti e soprattutto delle strutture che avevano una capacità chirurgica, perché comunque le priorità adesso sono ancora priorità chirurgiche, quindi operazioni soprattutto che ortopediche, traumatologiche, insomma. La maggior parte le patologie più diffuse all'interno di queste situazioni sono di solito con i traumi, fratture, ustioni, ferite, cancreni che comunque richiedono un'amputazione, quindi la chirurgia è comunque al primo piano. Il fatto di essere già lì presenti ci ha dato modo di identificare il più velocemente possibile delle strutture agibili. La macchina di MSF si è comunque messa in movimento molto velocemente tramite l'organizzazione dei vari equip o comunque team d'urgenza siamo riusciti a preparare dei cargo con i primi kit medici, perché noi MSF abbiamo comunque dei kit che sono pronti per vari interventi in caso di emergenza, come kit chirurgici, kit di primo intervento, eccetera, e siamo riusciti a spedirli abbastanza speditamente verso Haiti. E a livello anche di risorse umane, perché abbiamo comunque un pool di persone che stanno comunque in stand-by in caso di emergenze, quindi anche il network di pool manager che comunque sono responsabili per cercare le risorse umane sia mediche che non mediche si è attivato molto tempestivamente per reagire a questo intervento. E dico semplicemente che adesso come adesso, dal 12 a oggi che siamo il 21, abbiamo più di 150 espatriati presenti ad Haiti. Quando si parla di Haiti però non bisogna dimenticare due cose. Prima di tutto che nell'isola c'erano 9.000 caschi blu, perché l'isola è comunque, c'è un corpo internazionale della MINUSTAF, o più o meno credo si dica così, che è la missione dell'ONU per la stabilizzazione di Haiti. Dunque Haiti ha comunque una forte instabilità politica. Questi 9.000 caschi blu che provengono da diversi paesi, però l'Italia non è presente. E la seconda cosa che bisogna non dimenticare parlando di Haiti è la povertà, l'estrema povertà di questo paese, il paese più povero delle Americhe. La disoccupazione colpisce circa il 60% della popolazione e il reddito annuale pro capite è di appena $1.300. Dunque, come è possibile in un paese colpito da una tragedia così grande, con una povertà così sviluppata e con la presenza di caschi blu, cioè significa appunto come dicevo prima, instabilità politica, com'è possibile avere un reale rapporto con le autorità locali, che poi è quello che è stato, diciamo così, criticato in parte dalla Protezione Civile Italiana, in quanto la critica è stata manca organizzazione, dunque non possiamo avere un reale rapporto con le autorità locali. A livello di Haiti, come giustamente ha detto lei, MSF ha deciso l'intervento, appunto, che è qualche anno che ne siamo lì presenti, perché comunque il paese aveva dei criteri che comunque come intervento medico a noi sembrava giusto essere lì presenti, perché come ha detto lei c'è una povertà estrema, quindi la gente sopravvive con un dollaro al giorno, c'è uno scenario di instabilità politica e anche di violenza, e c'è, e parlo della parte medica perché noi comunque siamo un'organizzazione medica, c'è un sistema sanitario molto inefficiente. Quindi una delle cose che si è visto da subito appunto era questa assenza di autorità, questa assenza di controparte con cui dialogare per raggiungere degli accordi, per dire di atterraggio di aerei, di atterraggio di materiale, che comunque ha provocato anche a noi come organizzazione umanitaria dei ritardi non da sottovalutare per la reazione, perché le dico, noi abbiamo avuto dei grossissimi problemi per far atterrare i nostri cargo e abbiamo dovuto dirottare i nostri aerei a Santo Domingo, quindi portando un ritardo notevole sull'arrivo di materiale medico in nelle varie strutture di NSF. Quindi l'assenza e comunque la debolezza politica del paese ha comunque influito anche su certi ritardi dell'intervento, insomma, umanitario. Ho una domanda sul coordinamento degli sforzi che vengono effettuati da tutti gli attori che si trovano ora ad Haiti. Ci sono, leggo, 800 organizzazioni non governative che operano sul territorio, ci sono le Nazioni Unite, gli Stati Uniti invieranno nei prossimi giorni, hanno annunciato 4.000 soldati aggiuntivi che dovrebbero portare il totale dei militari americani presenti nell'isola a 15.000. Una domanda forse banale, ma chi è? Come viene fatto il coordinamento appunto tra tutti gli sforzi e le azioni di tutti questi attori che si trovano sul territorio? Allora, il coordinamento soprattutto all'inizio, diciamo nei primi 48 ore, 72 ore, è stato molto difficile, in quanto c'era comunque un problema di comunicazione con i telefoni. Anche noi a livello di comunicazione con la nostra stessa equip è stata molto difficile nelle prime 72 ore di intervento, perché comunque le linee telefoniche non funzionavano, quindi c'era un attimo di blackout un po' generale, quindi non si riusciva molto ad avere delle notizie o comunque sì, degli aggiornamenti frequenti per quanto riguarda quello che stava succedendo nel paese. Dalle ultime notizie che io ho, comunque adesso con anche il ripristino delle comunicazioni e con il fatto di si è comunque ammigliorata, si sta cercando comunque di strutturare l'intervento delle varie organizzazioni presenti nel paese. Chiaro, con un afflusso di organizzazioni di questo tipo, come lei ha detto, 800 sul territorio, voi potete ben immaginare che non sia assolutamente semplice coordinare le attività tra tutte queste organizzazioni. Quindi presumo che il coordinamento non sia ancora a livello perfetto, insomma, se si può usare il termine perfetto in questi casi. Il 18 gennaio sul giornale La Repubblica è apparso un racconto di Stefano Zannini, operatore di Medici Senza Frontiere sull'isola Oggi. Nel racconto un pezzo diceva: ci sono centinaia di persone che attendono di essere operate, ma abbiamo solo due sale operatorie che lavorano giorno e notte. C'è un piccolo bagliore in fondo a questo tunnel dell'orrore e dell'impotenza. Per la prima volta ho visto dei feriti lasciare l'ospedale. Cos'è che può aiutare a vedere questo bagliore in fondo al tunnel agli operatori che si trovano sul terreno ora? Come l'ho definito prima, l'ONU lo chiama il peggiore disastro mai affrontato. È stato addirittura definito peggio dello tsunami, in quanto lo tsunami è avvenuto in una zona in cui le infrastrutture erano comunque meglio che ad Haiti. Cosa può far cogliere questo bagliore in fondo al tunnel ad un operatore che è sul terreno ora? La sua forza interiore? In queste situazioni abbastanza, diciamo, catastrofiche, ovviamente c'è comunque la forza psicologica e mentale di ciascuno. C'è anche gente che non riesce a reggere una un'esperienza così forte e così traumatica. C'è anche comunque la fiducia nel fatto che c'è una macchina dietro, io sto parlando di MSF, che si muove velocemente, che riesce comunque a reagire in tempi molto brevi, mi scusi, per dire, lei ha detto ok, nel 18, cioè, il 18 sono uscite, è uscito un articolo con 2 sale operatorie, adesso MSF ha 10 sale operatorie, quindi sì, c'è la disperazione del momento, perché comunque immagino che gli operatori che sono presenti ora da Haiti, anche loro abbiano avuto uno shock non da poco, ma c'è comunque la speranza e la fiducia in un'organizzazione che cerca di essere veloce, di essere presente e di accogliere e di reagire il prima possibile per cercare di salvare più vite umane. Per dire, adesso, come 20 gennaio, quindi ieri, questi sono gli ultimi numeri, abbiamo curato più di 5.000 vittime, abbiamo fatto più di 900 interventi chirurgici, abbiamo una media di 130 operazioni in ciascuna delle nostre sale operatorie, il nostro equip chirurgico lavora 24 ore su 24, quindi c'è veramente una corsa contro il tempo, una corsa nella speranza di cercare di arrivare al più grande numero di pazienti o di vittime di questa catastrofe. Chi volesse aiutare... altre domande dallo studio? Sì, un'ultima domanda dallo studio per chiudere. Chi volesse aiutare MSF e l'attività di MSF ad Haiti, come può farlo? Allora, sul nostro sito, internet, quindi sul nostro web, troverete tutte le informazioni per le donazioni, per i fondi che vanno comunque a gestire le emergenze, che in questo caso ovviamente la prima emergenza adesso come adesso è Haiti, e quindi troverete tutte le informazioni sui nostri siti MSF, quindi Médecins Sans Frontières. E devo dire, anzi, che devo ringraziare i donatori, perché la reazione di quelli che ci sostengono e anche quelli che comunque non ci sostenevano prima è stata estremamente generosa, quindi ringrazio tutti quelli che hanno donato a MSF. Freda, a noi non resta che ringraziare te per il tuo contributo e per questa finestra sulla tragedia di Haiti. Grazie mille e buon lavoro. Grazie mille, arrivederci. Grazie dallo studio e buon lavoro. Buon lavoro, arrivederci. Cari radioascoltatori, siamo giunti in chiusura, quella di questa puntata di Giro di Boa. Anche questa sera Giro di Boa ha seguito l'attualità. Abbiamo parlato di cambiamento climatico con Monica Frassoni e abbiamo aperto una dolorosa e triste finestra su Haiti, su quanto è successo con il tragico terremoto del 12 gennaio scorso, e lo abbiamo fatto attraverso l'operato di Médecins Sans Frontières. Dunque un saluto e a risentirci alla settimana prossima. Alessandra? Sì, non mi resta che salutare te e i ragazzi in regia, ringraziarli per il loro sostegno, e alla prossima settimana. Un grazie a Michele in regia e a risentirci a giovedì prossimo. Buona serata.